Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, Oscar, 2 maggio. 8 di 19 minuti. 2 maggio. Che giorno è oggi? Martedì. Martedì. Quindi anche questa settimana le 5 Stelle hanno vinto, settimana corta. Settimana cortissima. Quattro giorni. Ecco, vedi, uno dice, ma da dove lo prendono certe idee? E prendono dal fatto che quest'anno ci sono più ponti. Secondo me banalmente si spiegano tante più cose che con pensieri logici. Comunque, non lo so. E il problema è che, sai, ogni tanto si riuniscono quelli del calendario liturgico, una delle commissioni centrali della Chiesa, perché i tifosi delle squadre del Milan si rivolgono, ma dateci qualche santo nuovo, perché no, dice che non, tu sei, fai parte di quelli che chiedono i santi nuovi, santi per, nuovi, per il Milan e l'Inter. Credo che neanche i santi possano fare qualcosa. Addirittura, va bene, allora potete sconvocarvi da Roma, perché dice Milan. Allora oggi comunque è un vescovo ed è un dottore della Chiesa, dice poco la sua storia ai tempi di oggi, però ci dice invece a lungo di una delle eresie che più ha diviso per secoli la Chiesa Cattolica, perché oggi è Sant'Atanasio, che era un vescovo di Alessandria d'Egitto, stiamo parlando di un vescovo intorno al 300, dal 360 in poi, per 46 anni, 5 volte mandato in esilio, ha combattuto contro tutti gli imperatori, ha difeso il credo niceno, il concilio di Nicea del 325, perché invece gli ariani che non c'entrano con Hitler, eccetera, questo ario dissentiva su un punto di fondo. Qual era il punto di fondo? Ma Dio è della stessa sostanza del padre o di una sostanza analoga? Classico spaccare il capello in quattro. Questo spaccare il capello in quattro per secoli ha fatto esplodere la Chiesa cristiana. Tant'è che per esempio tutti i 650 i vescovi precedenti africani furono mandati via. Atanasio ha combattuto tutta la vita per questo ed è un santo molto rispettato in altri tempi, oggi l'abbiamo superata questa storia, e però nello stesso giorno si ricordano infatti un mucchio di santi che sono vescovi esiliati, si chiamano Vendemiale, Longino, Eugenio, eccetera eccetera. Pensate, tutti i vescovi del Nord Africa cacciati via, ma quando dico cacciati via, alcuni martirizzati, uccisi e così via. Ecco, per secoli la storia della Chiesa è stata anche questa, a dire la verità. Oggi cosa si ricorda nel passato? Per esempio, quando c'è la liretta che alcuni rimpiangono, nel 1974 oggi si tassa il 40%, la lista del 40% dei beni importati, quindi la gente doveva pagare di più se voleva comprare cose straniere. Alcuni ritengono essere cose nuove, follie, basta ricordare quegli anni. Io ogni tanto non a caso ricordo cose di quegli anni per dire pensiamoci bene prima di tornare indietro. E vi ricordo che la stessa Le Pen in questo fine settimana ha detto che uscire dall'euro non è più la pregiudiziale della sua politica economica, cioè tra i voti e le idee un po' bislacche inizia anche lei a preferire i voti. Nel 1998 veniva fondata la BCE. Nel 1997 Blair diventava primo ministro, all'epoca era il più giovane primo ministro della storia britannica negli ultimi 185 anni, sono passati 20 anni, ne aveva 43 all'epoca, e direi che con questo abbiamo più o meno ricordato tutto quello che c'è da ricordare del giorno odierno. Come è passato questo fine settimana? Bene, bene, fine settimana bene. Tra l'altro, Oscar, oggi non ci sono i giornali. Questo è uno di quei giorni santi che fa pensare che siamo liberi di fissare un'agenda delle nostre priorità, sì, invece che di seguire quella dei giornali. Esempio, il sedere di Kim Kardashian. Ci ha colpito molto, non il sedere di Kim Kardashian, ci ha colpito. In Italia, paragonabile alla polemica su ma quante volte si è rifatta la Tatangelo, siamo più o meno nello stesso set. No. No, ha colpito il fatto che, adesso mi devi far parlare di Kim Kardashian, ma ha colpito il fatto che, pensate, ci sono 100.000 persone, ma 100.000 buon senso, cosiddetti follower, ma qual è la vera notizia? Quelli che seguono i social, pensa, che hanno lasciato, abbandonato Kim Kardashian perché ci sono le foto di lei con la cellulite. A me fa sperare, perché è una, per me, un'insospettabile manifestazione anche tra i seguaci di Kim Kardashian, di buon senso, che dicono però c'è, perché ci sono i seguaci di Kim Kardashian, o no, quello è un fenomeno contro il quale mi arrendo, mi arrendo, perché fa parte del mondo attuale ed è inutile fare i moralisti, ma che poi di fronte al fatto però c'è la cellulite e allora dicono, non la seguo più. Oh, questo è una cosa di buon senso. Perché la seguivano per i suoi ragionamenti, le sue, no, le sue, la seguivano per il suo coso, e il suo coso però la cellulite. Cioè, è un arrendersi alla realtà. È un realismo superiore a quello con cui la stampa ha nelle 24 ore successive guardato le primarie del PD, perché sono state celebrate con successo clamoroso da Kim Kardashian. Per 24 ore i media italiani non hanno detto no, Renzi ha perso 1 su 3 di quelli che lo avevano votato nel 2013. Da Kim Kardashian siamo saltati alle primarie del PD. Mi ha colpito, cioè i media italiani hanno bevuto per 24 ore. Dopodiché io sono il primo che dice viva il PD che sceglie i suoi leader facendo votare tutti, gli altri partiti no. Quindi non si discute questo. Ma il fatto di far dimenticare una sconfitta di fronte al paese nelle urne regolari, il referendum, con un rito interno, già mi lascia un po' così. Ma la politica è fatta di queste cose, quindi onore a loro che la fanno. Ma che poi si dica 2 milioni e invece non sono 2 milioni, e soprattutto lui ne ha presi 1 milione e 2 invece che 1 milione e 8, cioè 600.000 in meno, beh, questo è il dato numerico su cui bisognava riflettere. Invece sembrava che non ci fosse. Invece no, ecco, vedete, subito Oscar mette il dito nell'occhio nelle primarie. No, io non metto il dito nell'occhio, l'ho messo sui media, no, perché loro fanno il loro mestiere. Ci sono, c'era anche il ponte, questo era vabbè, c'era il ponte, molti, però. Molti non c'erano anche le maratone, manco fossero le elezioni americane, ragazzi. Cioè le maratone Rai e Mentana, per una volta oso criticare, sì, Enrico, il grande Mentana, insomma, le primarie del PD non sono le elezioni americane, adesso non vorrei dire, sì. Ma insomma c'è forse una lettura di Pietro da Milano: Renzi ha perso un terzo dei seguaci perché ha la cellulite e ha messo insieme, no, attenzione, questa può essere una illuminante riflessione. No, c'era il ponte, anche questo va riconosciuto, cioè io non sono un critico a prescindere, dico che però a volte l'informazione ha fatto il ponte pure a lei per prima, evidentemente, perché si è bevuta tutto, non so come dire. Comunque partiamo da qui, per dire intanto 800 24 00 24, secondo me gli italiani adesso vorrebbero anche capire e sapere se parte il refrain, chiamiamolo così, Gentiloni stai sereno, oppure dici che è la prima preoccupazione degli italiani questa? No, nel senso, sulla questione delle elezioni del Partito Democratico, le primarie del PD, secondo me gli italiani non sono interessati a questa cosa, non coloro che fa parte, no, del... se non più dell'occuparsi un attimo, va bene, Renzi è tornato segretario del PD, ora capire questo cosa significa. Significa che sosterrà il governo oppure no? Da quello che lui fa scrivere giornali tutti i giorni, mi pare che il governo debba preoccuparsi molto. Sì. Però secondo altre letture è l'ultimo che vorrebbe andare a votare, perché prima deve insomma costruire un po' di questa famosa pagina bianca da riempire. Prima deve far fare al governo quello che dice lui, perché l'Italia già sta avvenendo, anche questa giornata topica, oggi c'è l'assemblea dei soci, quindi c'è la richiesta ufficiale di commissariamento, però in pochi giorni i giornali che dicevano anche lì, pagina riempita, il governo dice non si nazionalizza, prestito ponte ma subito si va poi alla liquidazione, in 2 giorni è cambiato tutto, sono iniziati a uscire articoli su, per l'Italia. Italia è pronta, Ferrovie dello Stato, Lufthansa, no Lufthansa, bene, la Qatar Airways, no, l'ATAC di Roma, l'associazione dei taxi, no, sto un po' ridendo, però in pochi giorni, guardate, ha fatto cambiare totalmente il set dei media italiani sull'Italia, quindi oggi c'è la richiesta del commissariamento, vedremo, Renzi ha detto il 15 maggio dico quello che si fa. Beh, benissimo, lo dice da segretario di partito, ma è evidente che per il governo insomma c'è qualche problemino, no? Io credo di non esagerare, ma si è capito in questo fine settimana lungo che Renzi dice io adesso sono tornato segretario e ha detto testualmente su qualunque argomento riterrò dirò al governo. Allora, noi ne vogliamo parlare con Flavia Perina dell'inchiesta. Buongiorno, ciao Flavia, ben ritrovato. Buongiorno a voi, buongiorno. Così come salutiamo Annalisa Cuzzocrea del quotidiano La Repubblica. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno a voi. Allora Flavia, che si può dire di queste primarie? Oscar dice più magari dare l'accento anche sui voti persi piuttosto che sull'affermazione certamente netta dal punto di vista percentuale di Renzi. Ma penso che i voti persi Renzi deve essere messo perfettamente in conto. Lui ha completato una riconfigurazione del partito e ha avuto una scissione che ha promosso in qualche modo, è una scissione che, alla quale lui non si è opposto assolutamente, anzi è sembrato a tutti ben lieto di aver mandato fuori una fetta del partito. Ha applicato una vecchissima regola della politica italiana, che è quella che dice meglio primo in provincia che secondo a Roma. Adesso ha il pieno controllo del suo partito, secondo me gli interessa anche poco il fatto di averlo avuto perdendo dei consensi, che era una cosa in qualche modo scontata, messa nel conto. Lui addirittura, parlando di queste primarie, aveva detto che avrebbe giudicato un successo 1 milione di partecipanti. Sì. Al voto. Sì, lì forse ha messo un po' le mani avanti, forse. Sì, aveva messo le mani avanti, ma aveva messo nel conto che il partito sarebbe dimagrito, perché il suo PD non è il PD di prima, questo è un partito differente, ha una base elettorale differente, ha larghe parti della vecchia classe dirigente che se ne sono andate, e di conseguenza quello che interessava a Renzi era recuperare un pieno controllo sul partito, non avere mai più una legislatura come quella attuale, dove lui ha dovuto competere con minoranze interne, con gruppi parlamentari disobbedienti e con commissioni che non facevano quello che voleva lui. In questo modo ha recuperato il pieno controllo, si avvierà verso le elezioni indicando un gruppo parlamentare che risponde esclusivamente a lui e non a altri. L'opposizione interna, se mai ci fosse, se mai la esercitasse qualcuno, sarà sicuramente molto debole, molto più fragile che in passato, quindi per lui è un'operazione sicuramente dal suo punto di vista di successo, che lo ha non solo rimesso in sella, ma gli ha dato una sorta di potere assoluto che prima non aveva. Sì, anche perché nel giro di 3 mesi effettivamente poi la politica è questa, caro Oscar, in 4 mesi, cioè da la sconfitta 4 dicembre a dire appunto lascio la politica, poi dopo aversi era corretto prima di perdere, a tornare comunque in sella al partito. E beh, lui ha una energia, voglio dire, che si misura in termini di radiazioni nucleari, non è una cosa che si misura in termini di interazione, di dinamica dei corpi solidi, cioè stiamo parlando di un'altra cosa. Quindi è evidente che non il 4 dicembre era una sconfitta che avrebbe fermato ben altri leader politici. Lui non si ferma e, ripeto, rispondere a una sconfitta nella generalità dell'elettorato con un rito interno del partito è un classico della politica, ma lui l'ha interpretata in maniera straordinaria. Infatti la vera sfida, credo, Annalisa Cuzzocrea, sarà o da qui a domani, cioè da qui a tornare a Palazzo Chigi, e quando, come e quale sarà la strada di Renzi secondo te a questo punto? Ma infatti secondo me il nodo è questo, non si è ancora capito, nonostante si sia celebrato un congresso, si siano fatte delle primarie, che progetto propone al paese Matteo Renzi, perché se lui propone l'identico progetto che è andato a schiantarsi sul referendum del 4 dicembre, avrà sicuramente dei problemi, quelli che magari non ha avuto dentro il partito ce li avrà nel paese quando si andrà a votare. Io credo che se ne renda conto lui stesso, se è vero, come hanno riportato le cronache in questi giorni, nonostante il ponte e la fatica del lavoro sulle primarie, in questi mi spezzo una lancia a favore dei colleghi di fronte alle critiche di Oscar, se lui davvero ha detto non è una rivincita ma una fase nuova, magari se ne rende conto anche lui. Renzi fa il bullo, ripropone lo stesso progetto che ha portato, che è andato male e che gli italiani hanno rifiutato, magari si accorda con i 5 Stelle su una legge elettorale che premi solo i 2 partiti più forti, in cui se la giocano, no? Con questo premio di maggioranza che addirittura la cui soglia scenderebbe addirittura al 35%, e quindi chi vince tutti gli altri a casa, rischia secondo me molto. E se invece comincia, continua una campagna che lui ha definito di ascolto del paese, magari lui è convinto di poter ricucire questo, ce lo diranno insomma i mesi che verranno. Però è vero che le prime mosse, come quella su Alitalia, oppure anche tutta la sua interferenza sulle nomine, no? Quando si è trattato di cambiare i vertici sì, aziende di Stato come Poste non fanno ben sperare nel fatto che Renzi possa cambiare. Imparato la lezione. Ma la famosa pagina bianca, no? Si è presentata così dicendo: questa nuova segretaria è la pagina bianca, è quella da riempire, da capire con dove andrà, che Renzi sarà. È stato bello che l'avessero riempita durante il congresso, no? No, ma io ho trovato un atto di straordinario, intenzionale, atto di verità. Significa: io mi prendo un mandato in bianco. Scusate, è rarissimo che un politico gli sfugga nel voler dire una cosa che sembra così positiva. Io vi ascolto, lui che ascolta è fantastico. Poi, ma detto tutto questo, ha messo mandato in bianco: farò, ho i voti per fare quello che voglio. Perché io la interpreto così, e ripeto, non è una critica. Si va all'essenza della politica. I politici spesso recitano la parte di chi devono ascoltare gli avversari. I leader forti dicono: col cavolo, il suo intervento lunghissimo, mandato in diretta televisiva, era: ho capito, come ha detto Mieli ieri poi in televisione commentando, il suo intervento era: ho capito, cari italiani, avevo proprio ragione io il 4 dicembre. Questo è l'essenza di Renzi. Poi dice: ma questa è una critica? No, questo significa oggettivamente rendere, secondo me, quello che ci arriva. Quando lui dice è un foglio bianco, vuol dire da una parte sì, se volete capire, sto dicendo che vi ascolto, dall'altra parte vi sto anche dicendo che lo riempio io. Ma in realtà in politica non esistono pagine bianche. Renzi ha rivendicato il suo operato, ha rivendicato, ha rivendicato l'atteggiamento che ha avuto sull'Europa, ha rivendicato esplicitamente il Job Act, non ha fatto alcun accenno di autocritica sul passato, quindi questa pagina bianca in realtà è la pagina scritta negli ultimi 3 anni che ha il suo naturale completamento in un progetto che al momento è quello della riconquista di Palazzo Chigi, non c'è molto di più, è fare le stesse cose, però tornare a Palazzo Chigi per continuare a farle. E penso che anche sia abbastanza chiara la chiave in cui giocherà la prossima campagna elettorale, che sarà quella di dire: date il potere a me perché solo io posso contrattare con l'Europa in modo efficiente. Il suo avversario è il 5 Stelle, evidentemente, quindi la campagna elettorale sarà giocata su un tono molto consueto di Matteo Renzi, che è quello: o me o il diluvio, o me o la catastrofe, o me il salto nel buio. Quindi io credo che sotto questo punto di vista l'unica incertezza vera, l'unico punto interrogativo che resta è quale sarà la data delle prossime elezioni. Se assisteremo ad un'accelerazione, magari a un decreto per aggiustare in qualche modo la legge elettorale, andare a votare a ottobre. Non è un mistero che lui vuole votare prima della legge di bilancio prossima, perché lì c'è un casino che ha combinato lui e non vuole assolutamente che nessuno lo affronti prima del voto. Anche questo si è detto, però diciamo in mezzo alle sue aspirazioni, al suo progetto, poi ci sta di mezzo anche non è che Renzi gioca da solo. Sì, c'è il Quirinale che infatti è intervenuto, e c'è anche questa idea che è stata diffusa nei giorni scorsi di una possibile accordo sul tema legge elettorale con i 5 Stelle. Annalisa, tu prima l'avevi accennato, è davvero un qualcosa di fattibile, tu che, come dire, frequenti i palazzi della politica tutti i giorni, oppure è una butade? Ma non so se sia fattibile. Di certo per la prima volta i 5 Stelle hanno aperto la possibilità, perché si rendono conto di aver bisogno di una legge elettorale che premi ancora di più il primo partito, se davvero vogliono andare a governare da soli senza fare alcuna alleanza. E in questo sperano di incontrare la volontà di Renzi di, appunto, come diceva Flavia, fare il buon forte: risolvo tutto io, datemi il mandato, vado a contrattare con l'Europa e non voglio avere a che fare. No, è stato lui a ricordare i Turigliatto, i Mastella, quando qualcuno gli profila la necessità di, invece di creare una legge elettorale che premi le coalizioni. È un periodo in cui le maggioranze si reggevano sui voti di Pisapia, non si allea, insomma, questo è quello. E quindi 5 Stelle sperano che questi due desideri si incontrino, magari avendo un premio di maggioranza al 35%. A me questa cosa fa molto sorridere, perché mi ricordo tutta la campagna elettorale del referendum contro l'Italicum, in cui si parlava di un premio di maggioranza spropositato. Sì. Se col 40% si potevano ottenere oltre il 50% dei seggi, adesso improvvisamente si può anche abbassare quella storia. Era l'epoca in cui il PD era il 40%. Annalisa, ma tu che pensi, che mica la coerenza sia un valore? Ma è la politica nella politica proprio no. Però dobbiamo andare un attimo in pubblicità, rientriamo tra qualche istante. Ricordiamo anche il numero di telefono: 800 24 00 24. State con noi 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, 8 e 40 minuti. Oscar, durante la pubblicità, ha detto: adesso stupiamo le nostre ospiti, le interroghiamo. No, adesso detta così si terrorizzano, no, esatto. E pensano che gli chiediamo della Kim. Parliamo anche di altri argomenti. No, non parliamo. No, state tranquilli. È tutto sotto controllo. Non parliamo di questo. Però prima c'è Lorenzo da Roma. Posso dire prima Lorenzo da Roma? Ieri mi ha lasciato senza parola. È una roba che in Italia non so come sarebbe stata. Ieri la Le Pen, ieri parlavano sia Macron che la Le Pen. Le Pen, in questa commissione che ha fatto lunghissimo, tutto moderatissimo, tutta una roba per mostrare, per tirare voti di Fillon, ha ripetuto per 4 minuti d'orologio brani interi di un intervento di Fillon. Nel senso che se li metti sui giornali francesi, ci sono faccia a faccia, si ripetono le stesse parole. Ma è incredibile, perché lì per lì dicevano: ma chi pensano che non ce lo ricordiamo? E invece no, per 5 minuti interi lo stesso discorso, oltretutto sorridendo e ammiccando. Ma tanto dico, se lo ricorda qualche giornale, ma chi legge no, i giornali? No, era proprio voluto, come dire, io come vedete posso fare lo stesso discorso, ma testuale. Vedi, la politica non finisce mai di stupire. Una bella trovata, un po' singolare, ma una bella trovata ieri. C'è Lorenzo da Roma, buongiorno Lorenzo. Buongiorno a tutti. Dica. Allora, diciamo, posso un attimo ribattere a quello che è stato detto un secondo fa, che è vero che nessuno lo segue, però noi giovani ce ne stiamo accorgendo di queste cose, ve lo posso assicurare. Sì. Perché che non ci sia coerenza, che non ci si rispetti un po' delle regole date, insomma, io posso dire che anche per gli amici che frequento, un po' vuoi anche per sopravvivere, perché altrimenti non sopravviviamo, io ho 31 anni e non vedo futuro se continuiamo così, quindi un po' ce ne stiamo accorgendo. Comunque volevo soltanto intervenire per dire la mia, è che io sono d'accordissimo su quello che stavo detto prima della pubblicità, cioè che purtroppo vedo un uomo solo che possa diciamo essere eletto alle prossime elezioni, che è Renzi, ma non per sue qualità, ma perché non c'è assolutamente nessun tipo mancanza di concorrenza. Mancanza di avversari. Assolutamente, e questa è la cosa che mi dispiace di più, perché penso che sia uno scenario veramente brutto nel 2017 per un paese come l'Italia. Pensare che non per lui, perché adesso non faccio una critica sulla persona o anche sulle idee, ma che non ci sia devo dire, io veramente sono sempre stupito di come gli italiani guardino sempre alle persone e le idee, i progetti. Proprio non. Noi cerchiamo sempre l'uomo o la donna forte, soprattutto l'uomo, diciamo. No, Flavia, Annalisa, anche Oscar, magari una considerazione sbagliata. Cioè, noi cerchiamo sempre la persona, diciamo, posso eleggere, ma uno non deve anche guardare le idee, i partiti, non lo so, sono un po' screditati. Comunque, i progetti che portano avanti un gruppo di persone. No, noi guardiamo sempre, ci innamoriamo della persona, poi ci disamoriamo immediatamente. Cioè, nella crisi dei vecchi partiti c'è il fatto che sono macchine elettorali diventate. C'è chi lo dice esplicitamente. Però l'effetto è questo: vedi, vedo Renzi e non vedo altri. Ipocritamente un po' lo nega, ma di fatto, alla fine, perché vuoi controllare un partito? Perché c'hai dei capi di lista bloccati scelti dal segretario del partito, cosa che piace molto ai segretari del partito, delle due leggi disegnate dalla Corte Costituzionale. Quindi un po' è vero gli italiani, ma mica tanto, anche altrove è così. No, ma è chiaro, vedi, arriva il messaggio Zaia, unica alternativa, cioè le persone, no? Flavia, tu cosa pensi di questo? Penso che ormai i programmi, diciamo, dell'area di centrodestra e dell'area centro di sinistra non hanno delle grandissime differenze. Alcuni provvedimenti del governo Renzi, penso al Job Act, all'articolo 18, avrebbe tranquillamente potuto proporli e votarli in centrodestra. E quindi tu dici è normale. Si fa riferimento alle persone, perché poi alla fine la gran parte della differenza è nella credibilità, nella reputazione, forse anche nella simpatia, come nella uno capacità parla di convincere delle persone. Oggettivamente non c'è più quella linea di demarcazione netta tra i programmi e tra le idee che abbiamo vissuto per tutto il Novecento. Sì. Diciamo, io porgo una cosa ad Annalisa. Uno dei motivi per cui, al di là di come lo si può giudicare personalmente il gruppo di chi se n'è riandato intorno a Bersani e così via, però una delle critiche di fondo di quel gruppo di pidini storici, ex Dessini e così via, era proprio nell'interpretazione del partito. In Renzi è troppo potere personale, l'uomo solo. Loro dicevano: nel nostro DNA c'è un partito fatto di un popolo, di leader che non dicono io, ma parlano a nome di una collettività e quindi sanno anche limare l'ego personale, cosa che Renzi proprio non riesce bene, anzi programmaticamente lui nega di volerlo fare. E questa non è una rottura che può costare un elettorato che non tornerà mai più al PD. Il più della gente dice, aggiungo, Renzi lo vuole questo, vuole cambiare la natura del partito mantenendogli lo stesso nome. Non gliene frega nulla che questa gente non lo voti più nelle regioni rosse. Tu come la vedi, Annalisa? mi sono interrogata su questo, su questa sostituzione di popolo, no? Di cui si parla e che Renzi vorrebbe fare, però non mi tornano molte cose, non mi torna perché come primo atto della sua segreteria ha voluto che il partito entrasse nel Partito Socialista Europeo, non mi tornano determinate idee che continua a portare avanti a volte quando gli prende la vena di sinistra. Però vedi, ecco, questa è davvero la scommessa, nel senso che quelle persone che sono andate via lo hanno fatto in nome della ditta, di un partito che non veniva gestito come loro pensavano si dovesse fare, però credo che sia Renzi che Bersani che D'Alema si sono comportati come se la ditta fosse il pallone da rubarsi mentre giocano a calcio. Cioè, non hanno davvero considerato che il PD dovrebbe essere qualcosa che è arrivato prima di loro, lascia perdere che non si chiamava PD, no? E che ci sarà dopo di loro. Quindi che senso ha uscire perché non viene gestito nel modo in cui tu pensi che sia che debba essere gestito, se è una cosa che andrà avanti dopo Renzi o comunque si suppone che dovrebbe essere così, e che senso ha spingere delle persone a uscire se quel partito non è di tua proprietà ma ha una sua storia, che poi credo che è quella che molte delle persone che sono andate a votare ai gazebo hanno voluto rivendicare. Io non sono convinta che questo voto ai gazebo sia un'investitura per Renzi. Solo personale, sì, certo. Solo personale. Sì. Ed è vero che si sono persi tantissimi voti, ma è vero che forse il partito, il PD, è in un momento di crisi profonda, e quindi questi 2 milioni, io ci credo nella sorpresa, hanno messo le mani avanti, però ci credo che 1,9 milioni non se lo aspettavano, perché non hanno saputo animarle, dare davvero un'anima a queste primarie, scopo. Vogliamo sentire anche cosa ne pensa Maria Teresa, sempre da Roma, buongiorno. Buongiorno, io ne penso una cosa molto semplice, che è vero, le primarie, è vero, ha preso tanti voti Renzi, ma per giudicare cosa fa il PD aspetterei le amministrative. Giusto. Perché è solo allora che sapremo come la pensano gli italiani. Ma è chiaro, questa era una votazione primaria, una votazione all'interno del partito. Sì, no? Dell'unico partito che le fa, peraltro. Ha scelto tra tre persone. Sì. E ha scelto la migliore, la peggiore. Ha scelto quella che gli pareva la più idonea. Sì, sì. Poi posso giudicare inutile aver pensato a quella persona, ma le altre, concordo con chi ha parlato prima, insomma, non è che avessero dato grande dimostrazione di capacità. Il partito non è né di Renzi, né di Emiliano, né di Orlando, né di quelli che sono usciti. Il partito era degli italiani. Vediamo se gli italiani alla prima prova nazionale lo ritengono credono, ancora tale. E gli italiani che credono a quella. Va bene. Maria grazie Maria Teresa. Andrea Belluno da Massimo, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io sposterei francamente in maniera opportuna il focus su un altro tema che va oltre il rappresentante di un partito politico, ovvero mi riferisco alle dichiarazioni che ha fatto Salvini ieri dal CARA di Mineo. Ora, precisato che io sono quanto di più lontano possa esserci da un sovranista, da un nazionalista qual è diventato Salvini, ma ci rendiamo conto la portata di quello che lui ha detto. Ora, teniamo presente che questo signore è un deputato europeo, come si definisce, ha dichiarato che è il più grande supermercato di carne, di commercio di carne umana, ha parlato forse anche di commercio d'armi, ha parlato di cose gravissime, degne di alto tradimento per chi possa aver organizzato questa cosa. C'è quel magistrato Zuccaro che ha fatto delle dichiarazioni e poi è tornato indietro. Stiamo parlando di una cosa gravissima che sta passando sottaciuta. Sottaciuta, sono dichiarazioni di Salvini. Cioè, che cosa è sottaciuto? Se è una polemica di cui parlano i giornali oggi, no, che non ci sono da 4 giorni, che cosa è sottaciuto? Ma insomma, soprattutto la portata di quello che sta dicendo Salvini. Allora, delle due l'una, o lui ha delle informazioni che non sono state ancora rese. Beh, insomma, le informazioni nascono tutte da un'audizione parlamentare svoltasi a marzo, in cui parla il procuratore di Catania Zuccaro, di molte pagine, che io la invito a leggere, Pubblica, nella quale taglia molto concretamente, facendo i nomi delle associazioni, non di tutte le ONG, ma di alcune in particolare, su cui ci sono dei sospetti, e dice: noi abbiamo i documenti ma non sono utilizzabili giudiziariamente, esatto. Che testimoniano i contatti. Cosa sono i documenti? Lo abbiamo appreso, sono dei report dei servizi olandesi e tedeschi che nascono dalle osservazioni fatte dalle navi militari di quei due paesi nei contingenti europei mediterraneo. Punto interrogativo se ci sono anche i report dell'AISE, cioè dei servizi italiani. E abbiamo anche appreso che a Trapani c'è un'indagine in corso sulla stessa faccenda più avanti. A quanto pare i magistrati sono anche arrabbiati perché per la polemica pubblica, quindi attenzione, come ha detto Alessandro, io concordo con lui, in paese serio, di fronte alla gravità di tanti sospetti e di report che arrivano dall'estero, farebbe indagini serie e acquisirebbe quei sospetti, invece che spaccarsi pro contro, cioè Salvini a far polverone. Semplicemente ha utilizzato queste informazioni pubbliche, che poi sono diventate pubbliche da interviste di Zucchero, e le utilizza politicamente, ma non è che ha lui delle nozioni in più rispetto a quelle che ha Zucchero. No, in realtà la questione dell'interesse interrogazione era sul tema, perché ha detto: ma parliamo un po' di Kim e Trump anche in questi minuti. Kim e Trump, no, lo dico così perché in una straordinaria amaca di Michele Serra qualche giorno fa Kim e Trump erano come paragonati a Rick e Gian, cioè perché se non fosse seria la questione ci sarebbe da ridere. Kim Jong-un, perché sennò la gente pensa che stai parlando di Kim Kardashian ancora, no. Non vorrei aggiungere altro gossip, siamo parlando di Kim Jong-un in questo momento, della questione seria la Corea e gli Stati Uniti. Ma Flavia, Annalisa, ma c'è da avere paura? Cioè, perché è una cosa distante fisicamente. Tu non lo capisci, Trump è un situazionista, capisci? Cioè adesso Trump dice che vorrebbe incontrare Kim Jong-un. Kim, quando ha detto Kim, immagino Kim Jong-un, anche lui, non Kim Kardashian. Chi lo sa. È un miracolo che non abbia sbagliato nome, Forse ecco detto... perché anche questo in questa situazione veramente surreale sarebbe. Però surreale, ma stiamo parlando della minaccia geopolitica forse maggiore, o meglio, era quella dell'ISIS, adesso superata. Da una parte la accende e dall'altra gioca. Io ho una visione molto semplice di questa vicenda, perché poi questo presidente americano è un grande propagandista di se stesso. Aveva il problema dei 100 giorni, perché i 100 giorni sono l'epoca del bilancio in cui si dice, ecco, quello che uno ha fatto, come ha risposto alle istanze dell'elettorato, delle persone che l'avevano votato. Lui lo ha risolto in questa maniera, alzando un enorme polverone intorno al caso Corea e allontanando un po' l'attenzione su i molti casini che ha combinato, sia sul fronte immigrati, il muro col Messico che non si è fatto, le sue leggi bando che vengono respinte dai giudici, sia dal tema tasse, un fronte sul quale fino adesso ha fatto ben poco, perché era il noccio del suo programma. Fumo negli occhi, elettorale. Un po' fumo negli occhi. Una bella crisi internazionale, ma c'è tutta quanta proprio una tradizione americana in questa direzione. Però lui è più bravo nell'autocomunicazione di quanto non si immaginasse. Lui lo fa coi tweet e tutti si chiedono. Soprattutto adesso ha detto a Bloomberg: incontrerei Kim Jong-un. Cioè, capite che voglio dire, che spiazza. Ma ve lo vedete un bel non incontro? Si prende sul serio, capisci? Cara Annalisa, tu meglio che ti occupi della politica italiana, perché come vedi quella estera? Sito di bulli, diciamo che Trump su Twitter a volte fa il boh, questa Corea del Nord ha stancato, non ha capito come si deve comportare, però magari ha sentito Salvini, gliel'ha consigliato lui di incontrare Kim Jong-un, perché Salvini c'è stato in Corea, ha anche detto che in Corea del Nord c'è uno splendido senso di comunità, vi ricordate? Vedremo Razzi magari... diventare centrale nella politica mondiale. Vedremo Razzi che si propone di andare alla Casa Bianca. Lui si è proposto al primo giorno come mediatore. Mediatore. Guardate che però secondo me Renzi invidia molto questa capacità di Trump. Come ha detto ieri, dobbiamo essere più presenti sui social. Quindi secondo me il trumpismo, nei suoi limiti oltrepassati scientemente, però non per follia, scientemente lo fa Trump. Trump sa di essere un maverick, un non politico, per questo si può permettere queste cose. È chiaro. E Renzi lo invidia terrificantemente. A me sembra sempre una vicenda tragicomica. C'è un lato di tragedia, perché la tragedia c'è e incombe, visto ma che perché tu hai questa idea che la politica sia una cosa serissima. Invece la politica così si rivela nella sua vera essenza. Io lo so che molti dicono: Giannino, ma ti richiamiamo all'ordine. Anch'io per decenni nella mia vita ho pensato che la vita politica fosse coerenza, alti ideali, il paese, eccetera. Poi li ho visti da vicino e insomma hai cambiato idea. Allora, noi nel ringraziare Flavia Perina dell'inchiesta, Annalisa Cuzzocrea di Repubblica e insieme ovviamente a Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli in redazione. Oggi l'Italia chiede i commissari, arriva le Ferrovie dello Stato, Renzi ha detto anche i taxi, cari ascoltatori all'Italia. Tu lo sai che invece Lorenzo ha detto: io adesso per contrastare, da oggi seguo Kim Kardashian, no, vado in contro perché tendenza. Lorenzo ha detto vado prima, da tendenza. Oggi mi chiamo Lorenzi. Va bene, a domani.